Io chiedo quando sarà e la gente si calmerà. Dimmi quando, quando siamo pronti. Guarda, tu mi interviste, io ti rispondo. Chiedi, io non so, io ti rispondo. Questo è là. Affari di finanza, come si fa? Di politica, come? Affari di ministero. Propone, non so, proposta, risposta, molte risposte. E dove vai? Che ne so, vai a futuro di gente. Digeriamo, fuzzoliare vuol dire scherzare. Scherzare, come scherzi a parte, come dice. Dice, lo sai cosa vuol dire fuzzoliare, gicceriare? Dice, sfottere, dice, gicceriare, dice. Contestare, ecco, che tu lo conosci la persona, c'hai confidenza, fiducia, ecco. L'altro non lo conosci, non manco guardi in faccia, manco saluti, dice. Non c'è, ma che fai con la fessa? Alla scuola questo. Perché c'è stato qua una persona, 10-20 anni, si voleva essere amico mio, detto, no, perché se ti conosco, cazzo non so chi sei, puoi essere una spia amica, non so, puoi lavorare per la CIA, la KPG, non so, dice no, per questo, e tu non ti vuoi presentare, come io non so niente di queste cose. Per il conspiraggio, non so, scotondiani, che cazzo c'è? Io sono italiano. Io sono un artista, cioè, naturalmente, faccio la tua professione. Come faccio mai? Faccio mai quello che voglio io. Alla Delon, mi calpaccio. Mi calpaccio. Mi calpaccio. Ma roba non ti puoi dire. Buongiorno di Santa. Dice buongiorno, oi, dice carissimo, madre, guarda, io sono scontento, non so. E calò, io devo fare la cosa pure a te, non mi conviene, eh? Devo imparare io, tu che mi fai? Ma mi dice, e dice, ma che te mi vieni? Allora no. La tua squadra la devi dire, sì, buongiorno, e pure io faccio finta, sono rovinato, però, beh, per far scarrasmi c'è, non vedi, se no l'Italia se non sa faccia, dice, ma con le buone maniere, dice, di me, no, dice, già, che c'è, personale, più ben oltrato, però, e dice, che cavolo, c'è, quello sempre, sempre, a chi non sa il cane, come c'è, il morto, chi non c'è sta figlia, o la, dice, come, vai là, tigre, guaffè, dove ci va a portare, eh? Come a BBC, è vero, a BBC come io, come tu, io sei qui con me, noi a lavorare nello studio, facciamo lo sguardo di Ulisse, la prova, porco Giuda, no? Poi là, dice, il prossimo anno si ripete ancora, dice, a BBC che hai pagato, oppure quella che deve fare la spesa, o, là, come si dice, oh, c'è stato personale, no? Pieppi c'ha Paolo, Paolo arriva alla casa, era mezz'ora, dice, che stiamo fatto, chissà, ah sì, allora via, vattene via da, dice, dalla mia società, dalla mia azienda, licenziato, basta. Ci manco acqua da colonnare. E perché il patrone è il patrone. Per esempio, so, non so, un avvertimento. O se pince, ma il guaglione. Ecco, no, no. Dice perché? Ma tu devi dire, ha ragione, vero? E che vuol dire diritto di BBC? E come avvocato insomma, io vado a difendere una cretina di gente così. Ecco, ma dottore, ma mi sembra che cacci. Ah, voi siete avvocato, brubido. Ma io lo so, io non ho mai la fortuna di vedermi, lo giuro, allo schermo. Ma sono brutti, troppo brutti, però sono intelligenti, dice, con l'intelligenza, dice, lo conosco. Cioè, vabbè, io metto in capo pure a colpo stavo, vabbè, dice, assato, vabbè, all'inverno. Cioè, vabbè, brutta gente. Ma calari, ma che giorno ti metto a metto la tua? Ma che so, ma che cazzo? Beh, posso andare, che ora è? Tu sai che l'ho conosciuto questo qua? Che sta artista che fa? Boh! Dice quello, è davvero, quello che lavora con i De Novo, non so. È vero, prima che suona. Ma come bravo, è bello. Lavora con Gino Bragnieri, davvero. Ma che ragazzo bravo lei. Lei sa dire. Che deve dire, ma lì, ma dove ti cazzo vuoi? Si fa tu? No, devo ci fare una mezz'ora. Ciao! Hai tu chi mi ha rovinato a me la vita? Questione di vendetta, cioè, di gesto. Polizia privata, limonare.